ok, è la bonus. Buone nuove, SSP Big J Remix Tape. Fino a 14 anni andavo bene a scuola, poi ho scoperto la figa, forse è stata la droga. Non me lo ricordo perché oltre la scuola ho perso anche la memoria. Che storia è, non sono il tipo che mi trovi in giro sul gioiellino di Papino, tutto golfino e mocassino. Io sono lo schifo a tara luce e vino, sempre nel mio mondo e sempre col sorriso. E c'è chi usa queste rime come una medicina, in cuffia pompa solamente aspirina per guarire dal mondo e da quello che c'è attorno. Ascolta attento queste rime, è dottrina. Tra le mie barre non trovi panze scritte in frissa, gara in pista, piazza e rissa, zero Lamborghini fra guidate da Battista. Non trovi rime da negroni come drink, più che rapper mi sento un barista, dai cin, cin. Alzo il gomito, non alzo le mani, alziamo i calici, rido, non piango come i salici, anche se non c'è niente da ridere, pagliacci. L'Italia va puttane, i politici magnacci. Ok, tu ascolta questo pezzo, ascoltalo due tre volte, poi tacci dentro. Questo è Big J, buone nuove, buone nuove pre-D-Stay. E quando è finito tu passalo ad ogni ragazza e ragazzo sconosciuto, tu passalo. Questo è Big J, buone nuove pre-D-Stay. Se avessi avuto l'occasione di incontrarti fra 100 anni, non staresti nei miei panni e comunque vicino agli altri. Sarei un po' più vecchio di quello che può sembrarti, una tela che col tempo ha dei colori più sgargianti. Fatto sta che la passione la coltivi, se poi scrivi ti ritorna indietro tanto tanto amore. Ma la passione non finisce, se la perdi è come un gioco vecchio in soffitta che non si ricostruisce. Come dici non si dice, come vinci non si vince, fra non puoi sradicare sta radice. Questa musica alla bocca, quindi fai parlare lei, senza peli sulla lingua, sempre vera dall'86. Tu dici musica, no, per me è molto di più. È calore come il sole sulla spiaggia a Cancun. Made in Italy lo stile, punta di diamante sul vinile, una cultura nata dei. Ok, tu ascolta questo pezzo, ascoltalo due tre volte poi dacci dentro. Questo è Big J, buone nuove, buone nuove pre-D-Stay. E quando è finito tu passalo ad ogni ragazzo e ragazzo sconosciuto, tu passalo. Questo è Big J, buone nuove pre-D-Stay. Rientro nella strofa numero 3, rinfresco le folle qui come l'estate. Mi invento una nuova per stupirti. Mi hanno detto che finali come il tuo sono un po' tristi, nel senso, sì bello il richiamo all'italiano, ma nel rap conta come pariamo, no che cantiamo. Va bene non giudico, va bene parliamo, ma chi lo fa spesso sta stento l'italiano. E chiamami fesso, di rap poco spesso, ma ho sentito gente farsi piaggi troppo presto. Un po' come la questione del sesso, che più lo fai e più ti viene meglio. Parli di te stesso, sì, nei testi cuore aperto, paragoni, effetto eco come Umberto, che dentro te si prima vero buio intenso. Il malessere è strumento per reagire e risalire adesso.